veramente bello, ispira tanto sentimento come tu che tieni a mente cacetato fai suonare. Guarda qua che sto giardina, siente si esti sciur arance, non profuma così fino, dindo core se ne va. E tu dici parta Dio, che lontana da sto core, dalla terra di amore, tiene cuore non torna. Estudo